Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Mi chiamo Lorenzo. Ho la maturità classica presa nel 1994 e per varie ragioni non mi sono mai laureato. Nel sentire in questi giorni sui media nazionali le statistiche che riguardano i dati occupazionali dei laureati italiani, mi sono guardato intorno, tra amici e parenti. E sapete cosa ho scoperto? Ho scoperto che mia moglie, anche lei con maturità classica presa con 60 sessantesimi e la laurea in lettere moderne con 110 e lode e pubblicazione della tesi, lavora come copywriter precaria da 9 anni presso una casa editrice con un contratto a progetto, ex Co-Co-Co. E a nulla sono valsi i colloqui presso altri editori. Trattamento economico e contrattuale erano gli stessi. Ho scoperto che sua sorella, maturità scientifica e laurea in fisica con indirizzo nucleare e 125 pubblicazioni accademiche all'attivo, dopo 4 anni al GSE di Darmstadt e 4 anni all'Università di Knoxville, Tennessee, come docente di fisica sperimentale, rientrata in Italia lavora con una borsa di studio presso l'Università di Milano a 1.200 euro al mese. Ho scoperto che un mio amico, ingegnere elettronico, laureato in corso al Politecnico di Milano, è costretto a passare la metà di ogni mese in Cina per evitare che la sua azienda possa pensare che la sua figura non è più indispensabile. Ovviamente, nessuna indennità di trasferta. Ho scoperto che un altro mio amico, laurea con lode in lettere moderne e giornalista professionista dal 2008, dopo 8 anni di Co-Co-Co presso una radio, si è guadagnato un contratto a tempo determinato di 2 anni. Lo stesso è accaduto a un mio compagno di classe, laureato in Cattolica a Milano in Scienze Politiche, che oggi risponde al centralino di una TV locale. Poi ci sono 2 mie amiche, entrambe laureate in biologia. La prima a progetto presso un'azienda farmaceutica, la seconda mai assunta da un'azienda di cosmetica, perché sempre in ristrutturazione. Ma c'è anche il mio migliore amico, che dopo la laurea in giurisprudenza è finito in una società di terziario avanzato dove, da precario, si trova a dare consulenze tecniche per progetti di finanza agevolata. E si potrebbe andare avanti. Si chiederà: «E tu come sei messo?» A 15 anni da quel diploma. Contratto a tempo indeterminato come responsabile di produzione presso una piccola casa editrice milanese. Dal 1994 ho cambiato 3 aziende, ma sempre con contratti a tempo indeterminato. Fortunato? No. Solo non laureato. Costo meno. Mi sono affacciato prima al mondo del lavoro, la famiglia me la sono fatta a inizio carriera e non quando avrei dovuto decollare. Non sono frustrato in un ruolo lavorativo diverso da quello per il quale gli altri hanno investito almeno 4 anni. La laurea la rimpiango, certo, ma per orgoglio e cultura personale. Non certo per arrivare a guadagnare, come riportato dai media, nel corso della vita il 65% in più dei diplomati. Perché i posti d'eccellenza in Italia sono troppo pochi rispetto ai laureati che potrebbero concorrervi, ma soprattutto perché tutti quelli che se li meritano in Italia non li raggiungono mai. Questi dati non fanno statistica, ma fanno almeno riflettere. Lorenzo. Ho sentito la notizia della proposta del PD di aumentare di 2 punti l'IRPEF per i contribuenti che fatturano più di 120.000 euro. Io sono un libero professionista, lavoro come consulente e il mio reddito fa parte di quella categoria, anzi, la supera. Sono ricco? Non so. Non credo. Sono stato licenziato dall'azienda in cui lavoravo nel 2000. Dopo un anno di mobbing devastante, mi sono trovato senza lavoro e senza stipendio. Ho iniziato a mettere a frutto le mie conoscenze, ho lavorato e lavoro 18 ore al giorno. E ho costruito una piccola ricchezza, non economica, ma di conoscenza e di soddisfazione personale. Sono orgoglioso di me stesso. Non ho i genitori, non ho nessuno. Mi sono sempre arrangiato. Non ho chiesto nulla a nessuno. Quando mi rivolsi ai sindacati per far valere i miei diritti, mi fu detto: «Tenga duro. Al giorno d'oggi avere un lavoro è un privilegio». Adesso sono ricco. E automaticamente sono diventato, quindi, secondo gli ascoltatori, un evasore tout court. Se leggo le statistiche, siamo davvero pochi in Italia noi ricchi, solo 200.000. La cosa strana è che poi ci sono decine di migliaia di auto di lusso che sono intestate a persone che dichiarano 5.000 euro di reddito. È dei giorni scorsi la scoperta di 157 persone nel Trevigiano che usufruivano di esenzioni varie pur essendo milionarie. Allora mi chiedo, mi va benissimo che vi siano iniziative per aiutare le persone che davvero hanno bisogno e sarò il primo ad attivarmi. Ma chi la pagherà? I ricchi o gli onesti? perché la differenza tra queste due categorie è molta. E ho paura che se si basano solo su chi, come me, dichiara tutto e paga le tasse, e sono orgoglioso di farlo, credo che ai poveri arriverà ben poco. Ma più di tutto, mi dispiace sentire questo tono, questa arroganza delle persone che godono quasi dell'opportunità che lo Stato aumenti le tasse a noi ricchi. Il dottor Franceschini dovrebbe chiedere che venisse intensificata la lotta all'evasione. Questa sì che sarebbe una cosa di sinistra. Cristiano. E continuiamo così. Tassiamo chi rischia, crea, innova, produce e regaliamo soldi a chi non fa nulla. Poi però non ci lamentiamo che le cose vanno male. Ma quanti poveri lo sono perché sfortunati o inabili? E quanti invece bigiavano la scuola quando io studiavo, andavano in vacanza quando io risparmiavo per investire nella mia attività? Dove arriveremo? Marcello, Roma. In Italia esiste, non da oggi, un problema di redistribuzione dei redditi, a svantaggio principalmente dei redditi di lavoro dipendente. La lotta all'evasione fiscale non è tra le priorità del governo in carica, per ovvie ragioni. Se qualcuno come Franceschini propone un prelievo una tantum sui redditi superiori ai 120.000 euro, non mi sembra una proposta così rivoluzionaria. Rivoluzionario sarebbe renderla permanente, oppure introdurre un'imposta patrimoniale. Gaetano. La sinistra pensa che i 120.000 euro o più di reddito piovano dal cielo e che chi li guadagna si è impegnato a fare la bella vita. Questo è solo un comodo stereotipo. La verità è che in molti casi questi redditi sono frutto di capacità, competenze, giornate lavorative di 14 ore, sabati e domeniche alla scrivania o in viaggio, vacanze non fatte, dedizione al lavoro che la maggior parte delle persone con un reddito medio non immagina nemmeno. E lo sanno questi signori che un libero professionista, artigiano o piccolo imprenditore che dichiara 120.000 euro di reddito si mette in tasca circa 3.800 euro netti al mese? Sarebbero questi i ricchi? Franceschini, che è una persona intelligente, evidentemente con questa proposta parla alla sua gente. Purtroppo per lui e per noi, all'Italia servono politici concreti e con idee, politici che siano in grado di ridurre e ristrutturare la spesa pubblica anche con decisioni impopolari, politici che sappiano riformare il nostro stato sociale per proteggere chi è in una situazione svantaggiata, politici che sappiano affrontare la questione dei cosiddetti privilegi acquisiti e non più giustificabili in questa situazione. Non è con questa classe politica che risolveremo i problemi d'Italia. Rolando. Non sono d'accordo sulla proposta di Franceschini. Ogni giorno ne spara una grossa. Io invece proporrei allo stesso segretario del PD rinuncia da parte di tutti i parlamentari ad una annualità di stipendio, sostituita con una annualità del salario di un metalmeccanico. Versamento nel fondo di solidarietà di tutti i contributi sindacali versati dai lavoratori durante l'anno 2008 alle varie sigle sindacali. Sospensione del finanziamento pubblico ai partiti. Come diceva Veltroni, si può fare. Penso che sia giunta l'ora che la casta dei partiti, dei parlamentari e dei sindacati rinuncino a qualcosa anche loro. Francesco da Foggia. La sinistra se ne esce con questa trovata dell'assegno di disoccupazione, che non è nemmeno originale. Nessuno si ricorda del prelievo anticostituzionale del 4 per 1000 sui conti correnti fatto dalla sinistra un po' di tempo fa e mai restituito. Oppure quella specie di prestito per poter entrare nella CEE. E adesso Franceschini lo vorrebbe far passare come opera pia, come se chi guadagna molto dovesse per forza avere la coscienza sporca o sentirsi in colpa della situazione attuale. Giuseppe, Bergamo. Non sottovalutiamo l'entità dei costi della politica, perché ai costi dei parlamentari vanno sommati gli stipendi degli staff dei ministri, dei dirigenti pubblici, dei dipendenti di Camera, Senato, Presidenza della Repubblica. Inoltre ci sono i costi degli enti locali che in questi anni hanno sperperato i soldi pubblici. Basta vedere quello che è accaduto nella sanità di diverse regioni, oppure in molti comuni e province. Infine, dobbiamo aggiungere gli stipendi dei direttori generali e presidenti di aziende pubbliche o di enti pubblici, le spese inutili per la comunicazione, i fondi per le comunità montane, Provate a leggere le finanziarie delle regioni e i bilanci di province e comuni che il Sole 24 Ore, nella pagina degli enti locali, tiene sotto controllo con molta competenza. E allora vi renderete conto che non è una cifra irrilevante e produce molte iniquità. Roberto. Scrivo per dire no alle case popolari. Dico no perché gli assegnatari molto spesso non ne hanno diritto. Dico no perché chi ci abita spesso le occupa con la forza, abusivamente. Dico no perché gli assegnatari hanno spesso redditi in nero e non dichiarati che non permetterebbero l'assegnazione. Dico no perché spesso vengono subaffittate in nero, soprattutto a studenti. Dico no perché pagano, quando pagano, affitti irrisori, mentre i poveri cristi come me vengono massacrati con rate di mutuo o affitti mediamente 20 volte superiori. Dico no perché verrebbero costruite con i soldi dei soliti contribuenti che pagano. Pagano e non hanno mai servizi. Dico no perché la manutenzione è sempre a carico dei contribuenti che pagano. Dico no perché distruggerebbero altro suolo pubblico. Dico no perché non risolverebbero il problema, proprio perché andrebbero a chi non ne ha diritto. Dico no perché saranno riscattate a due soldi. Fabio, un contribuente che deve pagare 900 euro mensili di mutuo per 20 anni, per un buco di casa nella periferia di Roma. Si fa tanto parlare di aiuti alle PMI. Lo si sente dire dal capo del governo e dal ministro dell'economia, dagli autorevoli presidenti di importanti istituti bancari. Ma poi, nel concreto, che succede? Che significa? In che cosa consistono? Alle banche è stato raccomandato fortemente di supportare le aziende, ma per tutta risposta la mia banca mi ha tolto lo scoperto di conto, che era già misero, appena 25.000 euro. Attenzione, sto parlando di un'azienda che fattura 6 milioni e che è sul mercato da 25 anni e che ha costantemente elevato il proprio fatturato di anno in anno. Abbiamo lavorato sull'internazionalizzazione, andando in giro per il mondo, stabilendo contatti e aprendo mercati in Arabia Saudita, Angola, Grecia. L'azienda conta circa 100 impiegati. Facciamo ingegneria, quella difficile, quella qualificante. Gli aiuti? Caro direttore, tutto da soli. Certo, c'è un gusto particolare a fare gli imprenditori, a rischiare, a costruire qualcosa. Mi dà solo molto fastidio che poi, dopo, si dirà che lo abbiamo fatto con l'aiuto di questo o di quello. Non riusciamo ad avere fideiussioni se non contro garantite al 100%, e parlo di fideiussioni a garanzia dell'anticipo contrattuale. Pensi che sono arrivato a dire alla banca: concedetemi la fideiussione e quando arriva l'anticipo ve lo tenete vincolato a garanzia. Come parlare al vento. Sconto fatture? Solo di aziende italiane famosissime. Ho provato a chiedere sconto fatture estere. Mi hanno detto: portami il contratto, ma non in inglese. Portami la traduzione in italiano. Lei dirà: cambi banca. Ma sono tutte uguali. Non so se usciremo indenni da questa crisi. Veramente non lo so. Ma se sarà così, lo dovremo solo a noi stessi. Gianfranco. Caro Gianfranco, la sua è una testimonianza importante. Non tanto perché punta il dito contro il sistema bancario. Purtroppo lo sappiamo, le banche sono in un periodo molto difficile, anche perché hanno giocato le loro carte molto più sulla finanza creativa che sull'industria e sul lavoro. Ma questo non solo in Italia, anzi soprattutto nei grandi paesi come Stati Uniti e Gran Bretagna. In Italia, in teoria, il sistema del credito è più vicino ai cittadini e alle imprese. Ci sono grandi istituti che dovrebbero aiutare il sistema economico nella sua proiezione internazionale e ci sono piccole banche che nei fatti hanno affiancato e continuano ad affiancare i sistemi locali come i distretti e quindi il sistema delle piccole e medie imprese. La realtà è spesso diversa. Il grido d'allarme degli imprenditori si è elevato spesso nelle ultime settimane e non è un caso che il governo abbia varato una misura di aiuto alle banche obbligando queste a mantenere il flusso dei finanziamenti al sistema produttivo. È indubbio che i problemi ci siano ed è indubbio che le banche in una fase come l'attuale preferiscano assumersi il minor numero di rischi possibili. Ma per spezzare le onde della crisi è indispensabile che queste stesse banche non si chiudano verso chi ha buone basi e buone idee e soprattutto fiducia nel futuro. I banchieri sono indispensabili all'economia, ma dovrebbero continuare ad essere un efficiente servizio, non un centro di potere. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.